Parte seconda, capitolo 6, 2. La casa di Conduit Road era fragrante dei garofani in vasi allineati lungo il muro del giardino. Dalle finestre il porto solcato di navi sembrava quasi a portata di mano. «Com'è bella Hong Kong!» esclamò Fiona Manton, da poco tornata dall'Europa. «Ogni volta che ci ritorno penso a quanto siamo stati fortunati di poterci abitare per molti anni e avendo sufficiente denaro per vivere bene». La cordialità distaccata e priva di curiosità di Fiona rendeva estremamente riposante l'atmosfera del salotto. Non era necessario recitare una parte o portare una maschera. Ha Sun, la vecchia servente, versava ritualmente il tè e offriva panini imbottiti e biscotti alla cannella. Entrò Evelyn Walsingham, reduce da una lunga passeggiata con Tati Bogle. Tati abbaiò allegramente, si avvicinò alla poltroncina a righe in cui ero seduta e prese a grattarmi alquanto energicamente le gambe nude. «Ecco, si vede che gli siete simpatica», disse James. «Tati fa così soltanto con le persone che gli piacciono veramente». Assurdamente bello, con gli occhi che spiccavano azzurri sul viso abbronzato, Mark stringeva leggermente la pipa fra due dita. Il lino verde. Evelyn gli sedeva accanto, fresca e serena. Immaginavo i pensieri di Mark. Evelyn è la donna di mezza età che prediligo, le voglio bene e desidererei tanto parlare di Sue Yen e di me. Dobbiamo il nostro incontro alla felice ispirazione che le ha suggerito di invitarci alla stessa serata e dopo che addio, è a lei che devo essere grato. Chissà se a Sue Yen dispiacerebbe che gliene parlassi. Si volse verso di me e io distolsi lo sguardo. È qui che tutto è cominciato, in questa casa, su questa sedia. Non era che un estraneo con cui conversare, e ora mi sento svenire, struggere, tutta, soltanto perché mi ha guardato. Se Evelyn non ci avesse invitati a cena la stessa sera, avrei potuto perderlo per sempre, non incontrarlo mai, e non lo avrei nemmeno saputo. Mi piaceva Fiona, coi grandi occhi neri e la bocca sensibile. Aveva una voce piacevolissima, quasi irlandese, nella sua dolcezza, e le parole non erano rivestite di quell'acida miscela di condiscendenza e curiosità propria a molte inglesi di Hong Kong, il cui solo scopo sembrava essere quello di far sapere a tutti come frequentassero il miglior ambiente della colonia, e le cui conversazioni erano piene di allusioni agli importanti ricevimenti ai quali avevano preso parte. «Come mai non avete assorbito la mentalità della colonia dopo tanti anni, Mrs. Manton?» Chiesi in un improvviso impulso di quella franchezza che mi procurava molti acerrimi nemici e qualche buon amico. Mi sembra che abbiate resistito con successo alla febbre del pettegolezzo e alla mentalità di Hong Kong. Ma non certo alla maniera di vivere di Hong Kong, rispose Fiona imperturbabile. Temo di essere irrimediabilmente viziata dagli agi e dalla buona servitù. Tuttavia considero ancora le persone quali individui. Capisco quello che volete dire, disse Evelyn. La Hong Kong inglese è piccola e assai pettegola. Molti di quelli che vengono qui si trovano improvvisamente a dover affrontare un livello di vita incomparabilmente superiore a quello a cui erano abituati in Inghilterra. Casa, servitù, automobile, tempo libero, tutte cose che prima non conoscevano e che non sanno usare. Si sentono sperduti e incerti e non possiamo certo farne loro una colpa. Credono di essersi elevati nella scala sociale e devono adeguarsi alla nuova posizione. Hanno paura di venire criticati nel ristretto ambiente sociale al quale i loro stessi interessi li limitano, di essere allontanati dal gregge alla prima manifestazione di una qualsiasi originalità di pensiero, di perdere terreno nella piacevolmente graduata gerarchia dell'isola. Il loro scopo è quello di raggiungere quel chimerico livello superiore di casta e di sicurezza finanziaria che esiste soltanto nella mentalità della borghesia inglese, ma che qui, in colonia, è tuttora simbolizzata da quella collinetta che si chiama The Peak. Anche i cinesi hanno il loro ambiente ristretto in cui è ben difficile entrare, osservò Fiona. Perché ci considerano intrusi, pur ammettendo che Hong Kong costituisce un ben comodo rifugio. Naturalmente ci sono eccezioni, ma sempre individuali. La barriera esiste sempre, ogni razza ha la sua struttura sociale, le sue gerarchie, le sue usanze, i suoi pregiudizi. È impossibile a chiunque appartenere a entrambi i mondi contemporaneamente. Conosco una persona che vi riesce, disse Mark, ma effettivamente si tratta di un'eccezione. Che cosa sta accadendo in Cina? Chiese Evelyn. Ho letto sul giornale che un altro gruppo di studenti cinesi è tornato a Shanghai dagli Stati Uniti e per prima cosa quei ragazzi hanno scritto feroci attacchi all'imperialismo. All'imperialismo del paese in cui avevano studiato, confessando di essere stati sedotti da corrotti e perversi pensieri reazionari, roba da far rabbrividire. Oh, non è che una fase passeggera, dissi. Questi attacchi non sono che propaganda e fanno parte di una politica intesa a sradicare l'influenza americana dal nostro sistema di educazione. Tutte le nostre rivoluzioni sono state caratterizzate da sentimenti antistranieri. La xenofobia è sempre latente in Cina, poiché non possiamo dimenticare le umiliazioni e le oppressioni subite. Come gli irlandesi abbiamo una memoria storica. Penso che tutti i missionari dovranno andarsene. Oggi la Cina è ardentemente nazionalista e non permetterà che la sua educazione superiore venga influenzata da stranieri. Sarebbe come se a Oxford e Cambridge ci fossero rettori cinesi e monaci buddisti. Ma questa è pur sempre una manifestazione di ingratitudine, ribatté Evelyn, specialmente verso gli americani, la cui filantropia su larga scala in Cina è universalmente riconosciuta e che hanno sussidiato molte delle vostre università. E soggiunse ridendo, chissà se anche voi, Suyen, scriverete un giorno una confessione, denunciando tutto il male che vi abbiamo fatto. Ditemi, Suyen, rinneghereste quello che sembravate amare? Mi guardai intorno, indecisa. Non so, risposi infine. 8. I cinesi, disse Mr. Kam, hanno bisogno di soli 2 pasti al giorno. Il nuovo funzionario governativo guardò Mr. Kam attraverso la duplice incognita dei suoi grossi occhiali, che lo proteggevano dalla curiosità altrui e mascheravano le sue reazioni personali. Mr. Palmer Jones gratificò Mr. Kam di un sorriso da gattina. Intorno a loro la vasta sala sfoggiava i trofei dei Kam. Un focolare di granito preso da un castello scozzese ne saturava un'estremità con la sua cupa imponenza, e da entrambi i lati le immagini di cera a grandezza naturale del presidente Roosevelt e del dottor Sun Yat-sen sedevano in episcopale conversazione su seggi di quercia scolpita. Su di un tavolo dalle gambe contorte, le figure compassate di un'urna greca camminavano accanto a un centauro d'avorio e la Torre Eiffel, di lucente acciaio, puntava verso il perpetuo tremolio dei lampadari di cristallo, la salda accusa della sua cima. Lungo le pareti a pannelli incrostate di madreperla si allineavano le copie marmoree delle statue del Louvre, del Museo Britannico e dei Musei Vaticani che i Kam avevano debitamente ammirato nel corso dei loro viaggi. La Venere di Milo e la Regina Vittoria in alta tenuta presiedevano quel congresso di nudi integrali. Le depravazioni coloristiche del soffitto, che la vista della Cappella Sistina aveva ispirato a una pittrice zitella americana convinta credente nella reincarnazione, costituivano la delizia di Mr. Kam e riuscivano a sconcertare anche i più importanti ed incalliti funzionari governativi britannici. Mr. Kam aveva notato l'interesse che la sua casa destava nel giovane funzionario governativo fin dal momento in cui gli aveva dato il benvenuto fra il leone imbalsamato e fornito di un'ingegnosa macchina svizzera che lo faceva ruggire e una statua di Lady Godiva pallida sul suo bianco cavallo. Aveva visto quegli occhi ben protetti immobilizzarsi sull'enorme aquila di ottone posta su di un massiccio piedistallo sul quale spiccava lo stemma marmoreo dei Kam con fiori di loto, una fenice rampante e una cometa. Il sole bianco del Kuomintang, nel centro, era ormai stato sostituito da 5 piccole stelle, poiché la nuova bandiera era diventata ufficiale e dopo tutto Mr. Kam era cinese. Non aveva il minimo dubbio che il giovanotto stesse ammirando ogni cosa in silenzio, come gli inglesi sono soliti fare. I cinesi, ripeté Mr. Kam, non mangiano mai più di 2 volte al giorno. Non hanno bisogno di mangiare di più. La sua mano sfiorò una lampada di cui andava particolarmente orgoglioso, posta sul tavolino laccato accanto alle tazze fiorite di porcellana trasparente, vecchie di 200 anni. La lampada era costituita da uno stomaco di cammello disseccato e gonfiato in modo da stare in piedi senza supporto, che egli aveva acquistato da un colonnello inglese dell'esercito indiano in pensione. Mi sembra di aver sentito dire che i cinesi hanno buon gusto, si disse il giovane sbalordito, che vivono in pittoreschi cortili con stagni pieni di fiori di loto e si circondano di squisiti ninoli antichi. Mister e Mrs. Cam erano giustamente orgogliosi della loro casa, per amore della quale avevano compiuto lunghi e faticosi viaggi, soggiornando in grandiosi e scomodissimi alberghi europei e americani e comperando senza badare a spese il meglio che la concezione della bellezza propria agli occidentali potesse offrire. Guide e amici li avevano portati a Buckingham Palace, a Holyrood, alla casa di Washington, a Oberammergau, a San Pietro. Si erano trascinati attraverso un numero infinito di musei e Mr. Cam non aveva mai mancato di annuire in continuazione per dimostrare quanto apprezzasse quelle bellezze. E se a volte si era sentito inorridire, il suo viso rotondo e impassibile non aveva mai rivelato traccia di alcun trauma interno. Era quanto di meglio l'Occidente potesse offrirgli e tanto gli bastava. Inoltre, quelle statue venivano erette sulle pubbliche piazze per l'educazione della gioventù. Mr. Cam non voleva che il meglio che il denaro potesse comperare. Dopotutto, si trattava di uno scambio equo, dato che molti amici stranieri di Mr. Cam, in cerca di qualcosa di tipicamente cinese, avevano ricevuto figurine di giada, rotoli di pergamena e porcellane. Era giusto che a sua volta egli potesse raccogliere nella sua casa queste sontuose e probanti manifestazioni dell'arte europea. Mr. Cam aveva ammassato il suo notevole patrimonio durante 30 anni di pace britannica in una Hong Kong beatamente immune da tutti i guai del continente e gliene era grato. Le organizzazioni di carità e gli enti di beneficenza che caratterizzavano la vita sociale di Hong Kong potevano sempre contare sul suo patronato. L'entità delle sue offerte veniva sempre stampata sul giornale ed egli aveva ormai dato abbastanza da giustificare una piccola onorificenza. Il giovane funzionario governativo ricordava le parole del suo antipatico e cinico predecessore, parole che egli aveva ascoltato con la freddezza e il contegnoso idealismo proprio dell'inglese ancora nuovo alla mentalità di Hong Kong. I contributi volontari sono come da noi, con qualche rarissima eccezione, si tratta di carità imposta dalla punta di spada dell'onorificenza. Benessere, si diceva il giovane funzionario. Benessere è una parola sfruttata dall'avida carità. Guardiamo ad esempio Adeline Palmer Jones. Ecco la troneggiante, spirante matronale benevolenza, più regale della regina Vittoria, trasudante savoir-faire. Giocatrice di poker con tutti gli assi nella borsetta. È una corpulenta Britannia venuta non a elemosinare, bensì a conferire a Mr. Cam l'onore di separarsi da un altro milione in cambio di una colonna nella Hong Kong Post. Devo ammettere che sa fare il suo mestiere di esattrice. Penso veramente che alla gioventù cinese faccia male mangiare 3 volte al giorno, disse Mr. Cam con solennità. Non hanno bisogno di così tanto cibo, i poveri non vi sono abituati, si ammalerebbero. Mrs. Palmer Jones si dichiarò d'accordo. Non avrebbe potuto essere più d'accordo con Mr. Cam. I cinesi erano una razza straordinaria, potevano lavorare di più, dormire di meno e soprattutto vivere con una quantità di cibo infinitamente inferiore a quella necessaria agli inglesi. Lei, Adeline, aveva vissuto in Cina molti anni e amava i cinesi, tutti quei cari bambini. Mr. Cam, si intromise il giovane funzionario, la spesa per il cibo necessario a questi 140 orfani è di $150 al giorno, compresi i salari degli impiegati. Non credo sia assolutamente possibile ridurla. Mr. Cam scosse tristemente il capo. Non sono più ricco, dichiarò. Mio padre sta diventando vecchio, molto vecchio. Avrò bisogno di molto denaro per il suo funerale. I funerali sono dispendiosi, sapete. Inoltre, mio padre desidera che la sua tomba venga ingrandita e naturalmente devo compiacerlo. Sapete bene come siamo noi cinesi. E qui si esibì da autentico cinese a beneficio degli stranieri presenti. Dovere filiale e rispetto filiale. Confucio. Mr. Kam sapeva che gli inglesi hanno un alto concetto di Confucio. Mr. Palmer Jones ritenne giunto il momento di lanciarsi all'attacco. Magnifico nuovo progetto, grande albergo per risolvere il sovraffollamento della colonia, aria condizionata, se possibile, cucine, lavanderie elettriche. Sir Madison Tam aveva regalato il terreno e una forte somma per la costruzione. Era veramente una grande dimostrazione di fiducia nell'avvenire di Hong Kong e rivelava lo spirito dei suoi grandi uomini. Certo, qualcuno avrebbe avuto molto piacere se una persona caritatevole come Mr. Kam si fosse fatto avanti con una donazione per la mobilia, le decorazioni interne e il giardino. La mobilia sarebbe stata appositamente studiata da un architetto di fama mondiale e quanto al giardino avevano già fatto chiamare uno specialista dall'America. Senza darlo a vedere, Mr. Kam aguzzava gli orecchi. Certo, la cosa si presentava favorevolmente, uno splendido edificio visibile a distanza di molte miglia risultava molto più interessante delle baracche dei poveri della città bassa. Nel tono mellifluo di Mrs. Palmer Jones gli sembrava di intuire una promessa, tuttavia esitava ancora. Non era forse risaputo che anche i Palmer Jones erano a caccia di onorificenze? E se Mrs. Palmer Jones non era ancora riuscita nel suo intento per sé e per suo marito, come poteva sperare che vi riuscisse per lui? Inoltre, sarebbe stato saggio cooperare così apertamente con gli inglesi, ora che i comunisti erano tanto vicini? La cosa andava considerata con calma e Mr. Kam decise di attendere finché non gli venisse fatta un'offerta concreta. I tempi non sono buoni, dichiarò. Guardate Hong Kong, sembra ricca e felice, ma già vi sono molti profughi e molti comunisti. Domani potrebbe essere invasa. Hong Kong è assolutamente inespugnabile, ribatté Mrs. Palmer Jones. Assolutamente. I nostri soldati sono i migliori del mondo, Mr. Kam. Certo, annuì Mr. Kam, ma noi, poveretti, non comprendiamo nulla di queste cose. Che faremo? Non avremo più denaro. Già si sta delineando una grossa crisi, domani potrei essere costretto a mendicare, concluse scuotendo il capo con una tragica smorfia di disperazione. Evidentemente non c'era nulla da fare. Mr. Kam era stato assai scaltro ad invitare contemporaneamente il giovane funzionario e Mrs. Palmer Jones con le loro diverse richieste. Erano stati invitati a cena, una cena intima con pochi amici, e ormai non era più possibile rifiutare. Nella vasta sala da pranzo, dominata da una grande riproduzione dell'ultima cena e della statua della libertà impugnante la fiaccola rossa, gli invitati sedettero intorno ai tavolini di legno di rosa. 18 persone consumarono le cornie del costo complessivo di $2.000. Mr. Kam, che conosceva i pregiudizi degli stranieri sull'igiene, risciacquò personalmente in loro presenza le tazze e i piatti in acqua bollente, disinfettata con Dettol. Al termine della cena, qualche centinaio di dollari di fuochi artificiali fu fatto esplodere accanto alla piscina e Mrs. Kam mostrò alle sue invitate i nuovi brillanti acquistati nel Sud America, del valore di $360.000. Non c'è difficoltà a portarli fuori quando si prende l'aereo, spiegò. Il loro figliolo maggiore era appassionato di cani e possedeva due danesi e due chow. Spende $35 al giorno per mantenerli, dichiarò la madre con orgoglio. Il figlio possedeva anche una delle più grandi automobili di Hong Kong, città nota per le sue enormi automobili, e aveva intenzione di comprarne un'altra. Sotto al letto di Mr. Kam, una bara del più prezioso legno di Lamu attendeva paziente il suo passeggero predestinato. Non ci capisco nulla, si disse il giovane funzionario governativo giunto da poco dall'Inghilterra. Le digodiva nell'atrio e la bara sotto il letto. Compera brillanti e vuole ridurre gli orfani a due pasti al giorno. $35 per quattro cani e 150 per tutti quei poveri ragazzini. Ho l'impressione di sognare. Ma non devo continuare così, altrimenti temo che non potrei rimanere molto a lungo a Hong Kong. 9. Era una Adeline Palmer Jones alquanto irritata quella che andò a prendere il tè con le amiche al Bandage Club. Se il tempo aveva addolcito il fascino di Humphrey e messo in rilievo i bei lineamenti del suo volto, aveva anche arrotondato le fattezze di Adeline e rafforzato le sue convinzioni. La repressa tendenza giovanile alla coercizione delle anime aveva trovato uno sfogo nella disapprovazione morale che ella esprimeva senza ritegno al Bandage Club nei riguardi di quelle persone che deludevano la sua aspettativa. Quel pomeriggio Adeline aveva preso parte alla riunione di un comitato costituito in maniera assai infelice, poiché il seggio del presidente veniva alternativamente occupato da lei e da una certa Mrs. Hennessy, una signora le cui vedute Adeline deprecava fortemente e sotto le cui direttive le proposte di Adeline, già accettate nel corso di precedenti riunioni, erano state sospese a vantaggio di altre a cui ella era decisamente contraria. Martha Monk e Mrs. Parrish non mancarono di compiangere Adeline e di dimostrarle tutta la loro simpatia. Il Bandage Club, fondato in tempi di serie emergenze, era un luogo intimo e grazioso nel quale le signore si prestavano volontariamente a tagliare bende, a sferruzzare maglierie e a prepararsi in ogni maniera possibile a far fronte a qualsiasi grave avvenimento. Secondo me, le persone come Mrs. Hensy, giunte da poco dall'Inghilterra, non possono avere esperienza dei nostri problemi, disse Martha. Molte di esse sono persino inquinate di socialismo. Al giorno d'oggi bisogna andar cauti in fatto di opinioni. Le idee possono essere veramente pericolose. Ho sentito dire, cominciò Mrs. Parrish, avvalendosi della lungamente attesa frase che costituiva il preludio d'obbligo ad ogni seria conversazione, non soltanto al Bandage Club, ma anche in altre riunioni di società. Ho sentito dire che quella bella ragazza, Diana Kilton, si fa vedere in giro con un sovrintendente di polizia, certo Alfred Brown. Fanno una bella coppia, disse la signora lentigginosa. Ieri sera cenavano insieme al Grips. Non ho potuto udire quello che stavano dicendo, ma non mi stupirei se fossero fidanzati. Non so dove siano andati dopo. Miss Kilton è davvero una bella ragazza, osservò Martha. Una volta abitava all'Elena May, ma ieri ho dato una scorsa alla lista delle pensionanti e non ho più trovato il suo nome. Evidentemente ha traslocato. Sapete dove abiti ora? In Pokfulham Road, a quanto mi hanno detto. L'ho incontrata una volta all'ospedale in compagnia di una cinese, una certa dottoressa Han. Han? Ripeté la signora lentiginosa. Non l'ho forse conosciuta in casa vostra, Adeline? Adeline strinse le labbra sottili fino a farle quasi scomparire. Sì. Non mi ha fatto una grande impressione, è molto di sinistra, molto. Mi ha detto lei stessa che ha intenzione di ritornare in Cina. Naturalmente afferma che si tratta della sua patria e che non si interessa affatto di politica, ma temo che per lei si tratti di qualcosa di più, di una semplice tendenza verso sinistra. Bisognerebbe conoscere meglio la gente che si frequenta. L'ho vista in compagnia di un delizioso giovane inglese, annunciò la signora lentiginosa. Facevano una passeggiata. Una passeggiata, mia cara, con questo tempo. Come si possa camminare con questo caldo è una cosa che davvero non riesco a concepire. È un giornalista, disse qualcuno. Secondo me dovrebbe stare più attento alle compagnie che frequenta. Le spie pullulano ovunque a Hong Kong. Da qualche istante Martha Monk sorrideva in trionfante attesa, rivelando i lunghi denti da cavallo. Ma è molto, molto peggio di quanto crediate, scoppiò infine. Io so tutto. Lui vorrebbe sposarla. Sposarla? Esclamò la signora lentiginosa. Oh, che stranezza, ma non è possibile. I figli sarebbero euroasiatici. Adeline si guardò intorno con aria di importanza, sentendo giunto il momento di dare in pasto alle amiche il bocconcino migliore. È già sposato, sillabò lentamente. La conversazione si fece generale e da ogni parte si incrociarono considerazioni e commenti eccitati. Questo era veramente un bocconcino prelibato da registrare negli annali di Hong Kong. Naturalmente, da parte di lui è comprensibile. I giornalisti sono come i marinai, oggi qui e domani in un altro continente. Ma lei cosa può sperare di ottenere? Come giornalista, dovrebbe essere più prudente, ci sono molte spie intorno. Se ne libererà non appena ne avrà avuto abbastanza, non temete. Ho sentito parlare di lei, naturalmente, e so che lui è piuttosto ricco, non c'è da stupirsi che gli stia attaccata. Ma lei dice di essere vedova? Non può trattarsi di amore, mia cara, è assurdo. Le donne di quel genere. Davvero, mia cara? Vuoi proprio dire che. Eh sì, sussurrò Marta. Quegli alberghetti cinesi, sai bene. È proprio il genere di cose che noi non dovremmo tollerare, dichiarò Adeline. Confesso di aver avuto una specie di presentimento, non ne verrà nulla di buono. Mrs. Parrish fu la prima a cambiare argomento, dilungandosi a decantare il suo Alf e la loro casetta tanto confortevole, pagata dalla compagnia come l'automobile. Sapevate che... A cena, quella sera, Martha Monk fece molte raccomandazioni al marito. Bada che non ti peschi a offrirle un passaggio in macchina, concluse. Quella donna è una ladra di mariti. Altre signore tornarono all'ostello religioso. Avete sentito? I punti fondamentali del pettegolezzo erano tre, e sempre gli stessi man mano che passavano di bocca in bocca. Lei è euroasiatica, naturalmente, ma è molto, molto rossa. Avete saputo che ha un amante inglese? Ma sebbene 2 anni dopo se ne parlasse ancora, tutto ciò non aveva alcuna importanza per Anh Su Yen e Mark Elliott.